montagna, quando il sole tramonterà. Va a giocare alla canasta, imita gli artisti, l'esistenzialista vuole far. Al suo paese non si fa che dire, chissà quando tornerà. Se tornasse in mezzo ai campi, come ai vecchi tempi, più non si farebbe criticar. Era carina in veste di contadinella, bella, bella, però da quando è diventata gagarella, chi la conosce più? E la Marianna non va più in campagna, quando il sol tramonterà. Coi capelli alla maschietta, sulla motoretta, preferisce andarsene in città. Carina in veste di contadinella, bella, bella, però da quando è diventata gagarella, chi la conosce più? E la Marianna non va più in campagna, quando il sol tramonterà. Coi capelli alla maschietta, sulla motoretta, preferisce andarsene in città. Chissà quando tornerà.